9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo venerdì 10 dicembre noi ci occupiamo di un problema che riguarda tutti noi, tutti, è inutile che fate eccezioni o pensate che siano solo i politici cattivoni, non voglio dire, mal comune mezzo gaudio, non voglio dire che sono tutti uguali, quindi noi certo partiamo dallo scandalo di Parentopoli a Roma per interrogarci poi sul fatto che Tengo Famiglia, il mitico motto che Longanesi voleva al centro della bandiera tricolore italiana, sia davvero, come e perché, un problema su cui cadono tanti predicatori di virtù nel nostro paese. Perché avere figli, mogli, amanti, segretarie da promuovere in posti eccetera è la prassi che ineliminabilmente in ogni commedia di costume, in ogni film di Totò e in ogni drammatica realtà della vita pubblica e non solo pubblica, italiana, perché qui si parla dell'università, si parla dei festival di cinematografia, si parla del giornalismo, si parla della Rai pubblica, si parla dei giornali privati, insomma, perché in ogni ambito Tengo Famiglia è la regola elementare più che l'eccezione seguita anche da molti di coloro che fanno finta di nascondersi, censurano gli altri e poi naturalmente vengono beccati. Da cosa partiamo? Partiamo dalla vicenda eclatante in corso in questi giorni e portata all'attenzione pubblica da Repubblica, che naturalmente fa il suo mestiere di giornale d'opposizione rispetto alla maggioranza nazionale, rispetto ai posti dove governa il centrodestra, e quindi a Roma, la città guidata dal sindaco Gianni Alemanno, i suoi cronisti scavano e fanno scoppiare lo scandalo delle 850 assunzioni a chiamata diretta all'ATAC e delle 954 assunzioni con semplici selezioni all'AMA. L'ATAC è l'azienda dei trasporti pubblici di Roma, l'AMA è l'azienda municipale dell'ambiente di Roma, e in queste due grandi caposaldi del potere pubblico romano nell'ambito delle municipalizzate scopriamo che allora Antonio Tajani, eurodeputato PDL, porta in ATAC l'ex assistente parlamentare. Marco Marsilio, deputato PDL, porta in ATAC la compagna. Stefano De Lillo, senatore PDL, porta in ATAC la moglie. Vincenzo Aracri, deputato PDL, porta in ATAC il genero. Vincenzo Piso, deputato PDL, porta in ATAC un collaboratore. Gianni San Marco, deputato PDL, porta in ATAC la cubista Giulia Pellegrino. Giorgio Simeoni, deputato PDL, porta in ATAC la ex segretaria. Stefano Andrini, amministratore di AMA Servizi. Mario Andrea Vattani e Antonio Lucarelli vengono indicati come ex nazisti, qui non c'entra niente Tengo Famiglia, qui è Repubblica che dice i cattivi di destra mettono i loro amici, e qui però entriamo in un'altra categoria di attacco politico, perché l'attacco politico di mettere quelli di parte propria nelle municipalizzate a me fa un po' sorridere, perché stiamo alla ragione vera del perché esistono le municipalizzate, a mettere quelli di parte propria, non certo puntare ai servizi più efficienti. Quindi questa parte degli elenchi io l'ho citata, ho iniziato a citare solo perché Repubblica izza il suo elettorato a dire mettono gli sporchi fascisti, naturalmente varrebbe l'accusa per gli altri dell'altra parte, però per dirvi quanto è lunga la lista dell'albero di Parentopoli, per così dire, se andiamo all'AMA invece che all'ATAC, l'elenco dei politici, naturalmente fatti da Repubblica, solo del centrodestra, è altrettanto lungo, per cui abbiamo Dario Rossini, ex capogruppo di AN in consiglio comunale, ora la destra, che porta in ATAC la compagna, Marco Visconti, ex consigliere comune di AN, porta in ATAC la compagna, eccetera, eccetera. La lista è lunghissima in realtà. Allora, parto da questo esempio per interrogarci su questo argomento, perché è un argomento trasversale della vita pubblica italiana, e abbiamo tre ospiti che ho scelto in ragione della loro diversa competenza per parlarne. Il primo è Carlo Puca, che è giornalista di Panorama, è mio caro amico, ma questo è il peggio dei suoi difetti, perché per il resto ha solo meriti, che è autore di un libro che vi prego di leggere se volete documentarvi su questo argomento. È un libro dell'editrice Aliberti, si intitola appunto con il grande motto longanesiano Tengo Famiglia, l'Italia dei parenti, ed è in tutti i capitoli, perché Carlo Puca non risparmia niente e nessuno, inizia con i Tullianos destra, va avanti con Bossi e il clan del Trota nella Lega, va avanti con Di Pietro e i suoi due figli e i suoi amici e non solo, va avanti con tutte le regioni di qualunque colore politico, esaminando regione per regione come la Parentopoli politica, non risparmia il giornalismo, sia quello pubblico, sia quello privato, sia quello della carta stampata, sia quello radiotelevisivo, va al mondo del cinema, va al mondo, insomma, all'università, che sappiamo bene come funziona questo dei concorsi, non risparmia quasi alcun angolo della vita italiana e per paginate intere vi darà degli impressionanti elenchi di congiunti, amici, affini e consanguinei fino alla settima generazione, che sembrano usciti da un film tutto e sono invece l'elenco degli intrecci indispensabili per capire come nel nostro paese la relazione familiare, la cooptazione relazionale sia la vera regola. Tanti giornalisti della RAI che fanno sinistri, contestatori in nome del fatto che solo gli altri sono la congrega, scoprirete che sono figli, mogli, mariti, in talune caso anche non mogli, mariti, qualcos'altro, ma insomma, ed è un elenco così sapido, e soprattutto perché è compilato e computato da una persona che dice: io non faccio il moralista, io guardo la realtà così com'è, e per questo ho chiamato Carlo Puca e lo ringrazio. Buongiorno Puca. Buongiorno e grazie. Poi abbiamo un altro collega, Claudio Cerasa che è giornalista del Foglio, Carlo Puca è giornalista di Panorama, non l'avevo detto, e Claudio Cerasa ha scritto oramai un anno, un mese fa, un libro che a mio giudizio resta il miglior libro per capire in maniera analitica, per chi non sia di Roma, il fenomeno Roma del sindaco Gianni Alemanno. Questo libro si chiamava La presa di Roma, è uscito in Rizzoli, Burr, e a Claudio Cerasa chiederemo quindi una riflessione su che cosa ci dica questo che sta avvenendo all'Ataca, l'ama rivelato da Repubblica, intorno alla macchina del potere e al significato politico della giunta guidata nel centrodestra a Roma da Alemanno, che però ha anche una storia dirigente nazionale e forse anche un futuro di dirigente nazionale, visto come sta messo il centrodestra. Grazie a Claudio Cerasa e buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E poi abbiamo Claudio Lottieri che insegna la dottrina dello Stato all'Università di Siena e che è uno degli animatori da sempre, dei fondatori dell'Istituto Bruno Leoni, in cui mi riconosco anch'io, come sapete, col quale, oltre a ringraziarlo, buongiorno Lottieri. Buongiorno, grazie. Col quale dovremmo condurre una riflessione su questo aspetto, per così dire, di fondo della vita italiana, dei meccanismi di selezione e promozione della vita pubblica e privata. A tra poco. Prima cominciamo con due flash. Carlo Puca, i colleghi di Repubblica le hanno dato una mano strepitosa per il lancio del suo libro. Ieri è avvenuta la presentazione addirittura con Luca De Filippo, perché lei ricorda nell'exergo del suo libro il grande Edoardo De Filippo, che disse all'esordio di Luca col cognome non del De Filippo, ma col cognome materno, dicendo: eh no, De Filippo troppo comodo, se l'ha da merità il cognome De Filippo. E allora Luca De Filippo le ha fatto il regalo di venire alla presentazione. Ma al di là del fatto che se il figlio di De Filippo se lo deve meritare, gli altri invece pare che non se lo meritino molto, con molta fatica, questa vicenda di Roma è per lei la regola, l'eccezione si è ristretta, era una regola da sempre nella vita pubblica italiana, la Seconda Repubblica è peggio, dal suo osservatorio di Panorama lei che ci dice? Ma io penso questo, che francamente, senza moralismi, giuro, che si sia valicato un crinale in questi anni, cioè si è stabilito che avere un ruolo di potere significa automaticamente sistemare qualcuno che ti è caro, insomma. Lei dice nella Prima Repubblica non era così. Ma no, la Prima Repubblica non era così fino a un certo punto, diciamo, cioè le cose si facevano anche con meno enfasi, come dire, si riusciva anche a sistemare, però come dire, se il papà era ministro il figlio magari sceglieva di fare il professore universitario, non so, o piuttosto che, non lo so, insomma, comunque avevano attività collaterali ma non che entravano nel pieno della gestione del potere da parte del congiunto famoso, insomma. Perché quando lei fa una parte del capitolo dedicato alla politica, dedicato alle dinastie, si vede che anche nella Prima Repubblica non si scherzava, insomma. No, non si scherzava, però sì, come dire, soprattutto per esempio la RAI era un posto dove i vari ministri, ma anche segretari di partito, sistemavano fratelli, figli, cognati, cioè la RAI è sempre stato infatti io lo chiamo il pentapartito RAI, è l'unico posto in Italia dove resiste, diciamo, il pentapartito, ci sono le quote ancora socialdemocratiche e liberali. E infatti mi dispiace a chi difende il servizio pubblico, che per me è una vergogna e va abolito e privatizzato, perché la RAI è semplicemente la stalla di tutte le politiche del tempo, e lo dico con pieno rispetto dei colleghi che credono pro tempore di essere i martiri, non sono i martiri, sono figli di un sistema di partito malato e degenerato, prego, no, però questo infatti, lo dico io Puca. No, ma lo dico anch'io, infatti io racconto, ma ripeto, senza moralismi, perché così fanno tutti, appunto. Racconto la vicenda di Ruffini, che diventa martire perché è sostituito al TG3, che però viene nominato direttore in RAI grazie a un accordo, essendo lui è il nipote di La Loggia da un lato, dall'altro è nipote di un ministro della sinistra democristiana, e quindi a un certo punto si trova l'accordo su di lui perché mette d'accordo maggioranza e opposizione, e diventa poi però il martire, quello lì sostituito perché l'editto bulgaro eccetera eccetera, quando poi lui stesso ha una storia uguale a quella di tanti altri, cioè voglio dire, poi quello è un altro difetto, diciamo, degli italiani, rendersi l'autodichiararsi martiri, no? In ogni occasione, quando poi, perché questo è un paese che ovviamente non ha alcuna memoria delle cose che avvengono. Detto questo, io nel libro cerco di fare una distinzione, questa ci terrei. Ma a me, devo dire la verità, ha colpito che di molti, anche noi facciamo questo mestiere, io poi da un po' di anni anche più di lei, ma di parecchi colleghi i più temerati, e ripeto del tutto legittimamente convinti di essere intemerati nemici del regime e moralizzatori, ignoravo io stesso che i rapporti, per esempio di Maria Luisa Busi, io me l'ero dimenticato il rapporto di parentela che lei ricorda a tutti, e così via. E ripeto, non è una cosa che gli ascoltatori devono capire fatta per stuzzicare solo da una parte, quindi è solo dire che faremmo bene a ricordare a ciascuno la storia che ha, tutto qua, ecco. No, ma è esattamente così. Io poi, ripeto, sono testimone, nel prossimo, se riuscissi a fare una seconda edizione, spero di farla, francamente, perché i riscontri ci sono tutti, dovrei raccontare probabilmente anche la vicenda personale, perché una delle prime telefonate l'ho ricevuta da mio padre, che a un certo punto mi dice, guarda Carlo, perché non organizziamo una presentazione nel mio liceo? E io dico, papà, scusami, ma non ho capito, questo è un libro su Tengo Famiglia e tu mi organizzi. E vabbè, ma cioè, lui era aderente allo spirito del libro. È penetrato talmente nella cosa. Allora, Puca, aspetti un secondo, perché lei ci deve accompagnare con un po' di aneddoti apologhi nel corso della trasmissione. Invece io devo fare una domanda secca e rasa, che deve dare a chi è in ascolto, ma non è di Roma e non ha l'idea dell'importanza dell'ATAC, dell'AMA, insomma, che sono i pilastri, la CEA a Roma, sono alcuni dei pilastri fondamentali del potere nella capitale pubblico che esprime il sindaco. Dal suo punto di vista e con lo spirito con cui ha analizzato la presa, diciamo così, del potere al posto dei sindaci di sinistra da parte di Alemanno e la politica che gli intorno, con una destra anche radicale, una destra sociale, che cosa vuol dire quello che è emerso all'ATAC e all'AMA in questi giorni? Vuol dire che, diciamo, che l'ATAC e l'AMA sono due tra le società municipalizzate più importanti che ci sono a Roma, sono tra quelle che hanno più persone che lavorano, e sono, diciamo, delle realtà che tutti i sindaci da sempre, quando sono a guidare Roma, hanno sempre cercato di conquistare politicamente, cercando in qualche modo di utilizzarle anche per piazzare qualcuno che gli potesse far comodo. Ma qui stiamo parlando di centinaia e centinaia a chiamata diretta. Sì, questi numeri non si erano mai visti in realtà. Io, senza sapere nulla di queste cose, un anno fa nel libro scrissi proprio che sia l'ATAC che l'AMA sono appunto due realtà in cui si cerca di esercitare il potere nella città per due ragioni. La prima è perché il trasporto pubblico e la monnezza, cioè la gestione del trasporto pubblico e dell'immondizia, sono due tra i temi più sensibili a Roma, sono due tra gli argomenti che vengono più discussi in campagna elettorale, due tra gli argomenti su cui i cittadini cercano di avere più risposte, ed è ovvio che se poi una persona si vede ogni giorno per strada la monnezza, se si vede arrivare gli autobus in ritardo, e poi capisce pure che in queste aziende si vengono assunte tante persone nonostante ci siano dei debiti pazzeschi, girano un pochettino le scatole, diciamo, e posso anche capire. Ma lei dia una risposta secca, sì. Da giornalista che si deve presumere bipartisan perché lavora al Foglio, perché abbiamo amici come Alessandro Giuli in comune, sì. Anche lei, come Carlo Puca, ringrazia Pietrangelo Buttafuoco, che sì. Ha scritto un'introduzione meravigliosa al libro di Carlo Puca, e anche lei lo ringrazia nel suo, quindi deve tentare di avere una visione bipartisan. Il centrodestra di Alemanno mette più figli, mogli, amanti, cubisti, eccetera, eccetera, dei sindaci di sinistra a Roma o no? Beh, sembra assolutamente di sì. Questo è il suo giudizio. Io posso aggiungere una cosa? Perché in questi giorni sui giornali giustamente si è dato conto di tutti quanti, gli amici, parenti, cugini, cubiste, sì. Hostess. Mi stupisce invece tantissimo che non si parla di due cose abbastanza elementari. La prima è che l'ATAC e l'AMA non sono due aziende che stanno esattamente bene. Meno male, va, che Cerasa mi solleva che si parla anche dei numeri. Ma diciamo non perché io non voglia parlare degli amanti. Io non so, nella mia esperienza di municipalizzate sono i sindaci di sinistra Roma, alcune ho lavorato per alcune consulenze. Allora, le chiamate dirette erano meno esplicite. Dubito assai che l'organizzazione delle promozioni e assunzioni dei dirigenti eccetera eccetera non fosse per affiliazioni. Questa è la mia impressione, magari mi sbaglio. Qui il meccanismo è semplicemente più alla, voglio dire, alla più evidente, più alla luce del sole, e questo testimone diciamo. È meno controllato, è più rozzo, è più è senza criteri, devo dire, ed è quindi ancora più deprecabile. In ogni caso, quello che comprova è che le aziende pubbliche sono una specie di fortino, di bancomat per tutti quando si vince. A me la cosa che stupisce veramente è che, primo, Alemanno soltanto adesso ha detto che bisogna rivedere le modalità di funzione, dobbiamo fare dei concorsi, ma a nessuno è venuto in mente di dire che bisognerebbe risanare questa azienda, secondo, farle funzionare, e terzo, cavolo, almeno se queste aziende non fossero direttamente controllate dal comune, magari, se non fossero considerate come delle estensioni delle segreterie politiche. Bravo, ma questo, diciamo, il discorso privatizzatore, questo fatelo fare a me, insomma, voi siete esperti del potere locale, nel suo caso della macchina romana di Alemanno, la parte di dire che è una vergogna tenere migliaia di società pubbliche che sprecano il denaro per non dare certo qualità di servizio ed efficienza, ma per piazzare tutti questi accoliti, questo fatelo fare a me che sono solito noto pazzo minoritario. Invece col professor Lottieri ieri abbiamo fatto un ragionamentino che mi ha del tutto persuaso che la parte meno vista sui giornali è quella di un ragionamento che apparentemente può sembrare paradossale e che chiedo di sviluppare a lui, perché l'emersione di questa 100 milionesima puntata della Parentopoli a cui si riduce la politica italiana ci ha riportato e ha riportato il professor Lottieri a ricordare poche settimane fa una polemica che aveva per protagonista il da noi mai dimenticato e molto compianto, sempre dico da noi, professor Miglio. È vero, Lottieri? Sì, certo, soprattutto perché Saviano un paio di settimane fa ha fatto riferimento alle tesi di Miglio sull'esigenza di costituzionalizzare la mafia, non buttandola un po' in politica naturalmente, ma in realtà Miglio già nell'87 aveva scritto un saggio molto importante sull'idea di una repubblica mediterranea, partendo da una considerazione elementare, cioè che esistono culture diverse. Lui usava l'immagine del calore, cioè più calde e più fredde, e nelle culture calde certe istituzioni, certe regole non funzionano. Lei diceva che da noi la relazione familiare è la vera regola, e allora da questo bisogna trovare delle conseguenze. Ora, speriamo che gli ascoltatori anche qui non cadano nel paradosso di non capire che nella costituzionalizzazione della mafia proposta dal professor Miglio c'era una paradossale riflessione su quello di cui stiamo parlando, che però è evidente, cioè se la relazione familiare, se la relazione della conoscenza, se la relazione sessuale, se la relazione amicale, quella di ascendenza politica, di corrente, prevale così sistematicamente dall'università alla RAI, dai giornali privati alla politica, dalle municipalizzate a qualunque ambito, vorrà dire che è un tratto permanente della maniera di organizzare la vita pubblica, diceva il professor Miglio. Ergo, bisognerebbe trarne delle conseguenze, Lottieri, anche su come organizzare, che ne so, i concorsi, per esempio. Esattamente, no? Io faccio parte, ahimè, del mondo universitario. In Italia i concorsi, il concorso è un'invenzione nordica, diciamo, no? Ci si presenta, tutti si è su un pari livello, si esaminano le pubblicazioni e così via, ma in realtà sono cooptazioni. Cioè sono scelte appunto di gruppo, familistiche, non necessariamente legate alla parentela, ma altri gruppi, no? Di tipo più o meno partitico, di partito accademico e così via. Cioè sono cooptazioni, ma dove chi copta non è responsabile in nulla di ciò che fa, cioè chi copta, copta di fatto, ma sotto la maschera di un concorso. Quindi abbiamo il peggio di due sistemi. A questo punto meglio sarebbe far cooptare, dato che, come dire, ci sono questi baroni che decidono, e poi magari periodicamente valutare, giudicare colui che copta. Insomma, è chiaro che a questo livello si riporrebbe lo stesso problema nella valutazione, però almeno la maschera sarebbe venuta meno, si saprebbe che quel dipartimento è fatto in un certo modo perché, come già avviene oggi, di fatto le decisioni sono state prese da quella persona. Allora, tanto varrebbe, per essere chiari, paradosso su cui vorrei sentire le telefonate dei nostri ascoltatori, ma perché non lo diciamo esplicitamente invece di fare finta di fare i concorsi quando poi procediamo come si vede a chiamata diretta? Perché allora non mettiamo esplicitamente un punteggio nel concorso? Siete familiare di, siete moglie, amico, parente, amante dell'amministratore delegato o del politico che comanda? Tot punti. Ma vi chiedo, non sarebbe paradossalmente meno amaro dire che l'amante, il figlio, la figlia, la cugina, la nipote è esplicitamente messa in una casella con un punteggio, piuttosto che fingere tutti di dire viva il merito, a cominciare da chi non ne ha nessuno, magari negli esperimenti manageriali che ha fatto nella vita, avete capito di chi sto parlando, immagino, di Miss Scesa in Shampoo, per così dire, e poi invece sapere che nella vita italiana non è quello che viene praticato. Allora tanto vale metterci dei punteggi espliciti e riflettere sulla bontà di quella provocazione del professor Miglio, che ci diceva è inutile che ci illudiamo, è inutile che spacciamo una verità diversa da quella che c'è, ammettiamo quella che c'è, perché forse solo se la rendiamo esplicita un domani diventeremo un pochino più capaci di selezionare per merito. Vediamo come la penseranno i nostri ascoltatori nella seconda parte della trasmissione, intanto pubblicità. Eccoci tornati qua in studio, ci stiamo occupando della parentopoli romana, le assunzioni a chiamata diretta di mogli, figli, cugine, amanti, cubiste da parte del potere di centrodestra intorno al sindaco Alemanno a Roma in questo venerdì 10 dicembre. Però abbiamo esteso, perché abbiamo ricordato a tutti con un libro di cui autore Carlo Puca, Liberti Editore, il libro è Tengo Famiglia, l'Italia dei Parenti, per chi volesse approfondire e documentarsi quanto sia bipartisan, estesa, orizzontale, alto, destra, centro, sinistra, dovunque troverete in ogni regione, nella Toscana Rossa, no, non insorgete cari ascoltatori, troverete anche documentati nella Toscana Rossa, Siena, alle parentopoli della politica, le troverete dal Pietro alla Lega, dal PDL ad Alleanza Nazionale e così via, ma non le troverete solo in quello. Riflettendo e di fronte all'evidenza di una seria ricerca come quella fatta da Carlo Puca, avrete l'evidenza di come le ascendenze, le affinità e consanguinei siano il vero ramo attraverso cui si seleziona, si coopta dall'università al giornalismo a tutte le professioni, da tutti gli ambiti professionali a molte delle scelte economiche e imprenditoriali del paese. Ecco, quindi per capirci stiamo interrogandoci sul Tengo Famiglia come prassi vera di un paese che dichiara poi di volere il merito, e molti chiedono chi è Miss Scesa in Shampoo, è il ciuffo più famoso del futuro della politica italiana, indovinate chi è, ha una grande fondazione per le mani e la Scesa in Shampoo per lui è l'equivalente della Scesa in Campo, non ne faccio il nome perché voglio rimanere ironico per così dire. Ma abbiamo parlato con Claudio Cerasa delle caratteristiche di questo potere romano intorno ad Alemanno, e con Carlo Lottieri siamo arrivati a una riflessione poi di fondo. Ma non aveva ragione il professor Miglio a ricordare a tutti che questa realtà mediterranea delle agnizioni, del sangue, che prevale in realtà sul merito e criteri freddi, oggettivi, tanto vale normarla e accettarla come l'ABC, l'intelaiatura del nostro tappeto nazionale. Sentiamo come la pensano alcuni di voi, tanto per cominciare. Cominciamo con Bruno, che ci chiama dalla provincia di Milano. Che dice Bruno? La parentopoli è regola, eccezione, bisogna combatterla o bisogna apertamente normarla invece? Sì, buongiorno. Beh, ovviamente bisognerebbe combatterla in quanto è palesemente un abuso di potere, quindi non, la tesi di Miglio sarebbe assolutamente da combattere, ma le cose sono due. Uno è sicuramente un abuso di potere. Io ho il potere di fare quella roba, sapete che c'è, lo faccio. La seconda cosa che secondo me è cambiata in questi anni è un po' invece la questione operativa, cioè si è un po' travalicato l'abuso di potere. E il fatto di non considerare assolutamente, non pensare più al fatto che questa persona sia o meno in grado di fare quello che insomma che deve fare nel posto in cui la metto. Quindi lei è d'accordo con Cerasa che ci diceva rispetto al centro-sinistra a Roma, per esempio, qui è proprio più incontrollata, è più diffusa, è proprio diventato più diretto perché si fa ricorso proprio a strumenti diretti un po' brutali, è un po' d'accordo con Cerasa? Ma sì, no, ma non penso che sia solo una cosa, io poi di sinistra, figuriamoci, non penso che sia una cosa assolutamente generalizzata, certo. Ma banalmente io mi sono immaginato in un posto di potere, probabilmente sì. Metterei anch'io a posto qualcuno, perché ecco, è una sincera ma è una cosa un po', non so se è italiana, perché secondo me succede in tutto il mondo, però io avrei la decenza e la preoccupazione almeno di dire che non mi faccia fare brutta figura. Secondo me ormai l'abuso di potere è talmente, anzi l'impunità, la totale... Sì. Però Bruno, guardi, adesso la interrompo, ok, stop, penso che anche loro fossero convinti che chi promuovevano gli facessero fare cattiva figura, da quanto portavano di reggiseno a magari a quanto erano anche intelligenti, bravi e dediti, e sa, è una misura di prevenzione non molto adeguata, per dire, quindi magari sarebbe in corso anche lei nel fatto che poi alcune sistemate o alcuni sistemati non sarebbero stati all'altezza delle sue aspettative. Sentiamo come la pensa invece Marco da Milano. Lei che dice, Marco? È pronto, buongiorno. Anch'io in parte riprendo quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Le faccio un esempio eclatante. A Milano, nei mesi scorsi, ACI, ministro Brambilla, ministro La Russa hanno piazzato i loro familiari. Il problema è che il ministro Brambilla ha piazzato nel consiglio di amministrazione il compagno che è un odontotecnico. Allora mi sta anche bene che possano trovare sistemazione persone che comunque che abbiano la competenza. Io vorrei sapere che competenza ha il compagno del ministro Brambilla nel consiglio d'amministrazione dell'ACI. Caso regolarmente documentato anch'esso nel libro di Carlo Puca, Tengo famiglia all'Italia dei parenti. E questo è l'elemento di Marco. Dice, vabbè, va bene i rapporti, per così dire, ma le competenze. Domenico, dalla provincia di Pavia, invece che pensa? Sì, buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Senta, io volevo soltanto dire una cosa, un'affermazione, che praticamente questo fenomeno, chiamiamolo così, cioè è da una vita che c'è. Adesso i giornalisti hanno scoperto l'acqua calda, perché io ho 58 anni e da quando ero ragazzo che mi è cominciato a interessarmi della politica, così che sentivo tutti questo apparentopoli. Quindi non è peggiorato, lei dice c'è sempre stato in queste proporzioni. Bisogna trovare invece il modo per mettere un freno a queste cose, capito, però è un malcostume. Ma è un malcostume connaturato al fatto che siamo italiani e quindi lo facciamo più degli altri, oppure è connaturato all'uomo che è imperfetto e vuole sistemare, connaturato, io la penso così, alla discrezionalità del potere, quindi tanto vale abbattere il più possibile la discrezionalità e la possibilità che il potere pubblico ha di decidere nomi, posti, società municipalizzate. Io per questo sono per il privato, non perché per forza più efficiente, anche il privato ha dei fallimenti, ma la discrezionalità pubblica a spese di Giannino, che paga il 67% del totale del reddito lordo delle sue società, questa è una roba che è connessa a quanto più esteso l'ambito pubblico. Per questo io sono privatizzatore, questa è la mia modestissima tesi, non voglio convincere nessuno, però la mia tesi è che è inutile pensare a regole che lo evitano, questo. Le regole sono fatte per essere aggirate. Quanto più esteso il mondo in cui le si possono aggirare, perché lei si amministra, le si decide pro tempore, tanto più l'imperfetta natura umana di un paese come il nostro, che ha una storia in cui il potere pubblico, la moneta, il dazio, si esercitava poco fuori le mura cittadine, che aveva una molteplicità di centri da sempre, i comuni, le signorie, eccetera, eccetera. Nel 300, in tutta la Francia, se volevano andare all'università, i pochissimi francesi che potevano andavano a Parigi, da noi ce n'erano già 5 all'epoca, e così via. In reti piccole di esercizio della sovranità, la cooptazione, la lotta per ceppi familiari è plurisecolarmente il sistema attraverso cui si fa promozione del comando nel nostro paese. Allora, noi abbiamo anche questa storia dietro, non possiamo far finta di dimenticarci, anche per questo Miglia ci ricordava questa riflessione. Sentiamo Paolo da Roma ancora, poi torniamo ai nostri ospiti. Paolo da Roma, come la pensa? Buongiorno caro dottor Giannino, innanzitutto la consolo perché non è l'unico pazzo visionario minoritario in giro per l'Italia. Un altro adepto di una setta che per il momento è perdente. Esatto, per il momento siamo perdenti. Dunque io porto due esperienze, la prima è proprio della parte più deleteria del mondo universitario. Io avevo presentato dei titoli per un concorso da ricercatore universitario e nell'arco di neanche 20 giorni mi è stato fatto capire in maniera più o meno esplicita che era meglio che quei titoli io li ritirassi. Che il posto era riservato a qualcuno, insomma. Praticamente sì. Allora a questo punto mi viene una riflessione da fare, ossia la valutazione, cioè secondo me andrebbe chiamata la persona, come si diceva prima, su responsabilità del direttore del dipartimento. Perché è giusto che sia così, alla fine è così, ma è così anche in posti virtuosi, per esempio negli Stati Uniti, cioè l'allievo che entra in una scuola e procede nei suoi studi e nella sua affermazione con quella scuola, è giusto che il suo direttore, che gli ha insegnato tutto quello che sa, se lo prenda a lavorare con sé. E questo secondo me non c'è nulla di male, però a questo punto è il direttore che ne ha la responsabilità, non è la commissione terza che fa finta di giudicare chi deve. E allora a questo punto io mi chiedo, però il cooptato deve avere una responsabilità che è quella della produzione scientifica, che è secondo me l'unico modo di valutare un universitario, ossia il cosiddetto impact factor. Chiarissimo, chiarissimo. È quello che si vede. È un valore assoluto. È un valore assoluto il coefficiente di pubblicazioni nella rivista che si fa la peer review. Benissimo. Lottieri, che dice di questa parte di riflessione che riguarda anche l'università? Come far emergere il meccanismo di cooptazione all'interno dei criteri per l'assegnazione delle cattedre? Sì, sono d'accordo con quanto è stato detto, che poi riprende un'osservazione che ho fatto io, tra l'altro, no? Sicuramente è così. Al tempo stesso aggiungerei un'altra cosa, che è ovvio che finché si resta in logica pubblica difficilmente si può, come dire, affrontare seriamente questo problema. Gli ascoltatori che hanno messo in evidenza che è stato un abuso hanno perfettamente ragione, no? E quindi è chiaro che però una considerazione bisogna farlo, siccome anch'io appartengo alla setta sunnominata, io sarei di questa setta anche se fossi in Norvegia, ma la considerazione che mi viene da fare è che particolarmente in Italia bisogna essere favorevoli alla privatizzazione dell'ATAC, dell'AMA, di ACEA e così via, perché non siamo assolutamente in grado nella nostra cultura di gestire queste realtà nelle assunzioni, nei contratti e così via, secondo un modello burocratico. Un modello burocratico che tra l'altro non va assolutamente esaltato in assoluto, cioè ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi, non è che ci possa soffermare molto su questo, ma chi ha letto il libro di Arendt su Eichmann, la spersonalizzazione legata alle logiche nordiche per intenderci, intende, insomma, cioè esiste anche tutta una serie di aspetti positivi legati al nostro essere caldi, familisti, amici di amici e così via. È chiaro che tutto questo però non è trasferibile nell'universo pubblico. Attenti a quest'altro passaggio delle osservazioni del professor Lottieri, quando ha parlato di nord e sud, e lo dico per tranquillizzare gli ascoltatori che avevano colto come sempre un attacco a nome della superiorità della logica fredda del nord rispetto a quella relazionale parentale del sud, no, perché il riferimento al libro dell'Arendt è stato sul fatto che poi nelle burocrazie, nelle grandi organizzazioni pubbliche, l'effetto spersonalizzante freddo del nord può portare alla banalità del male, cioè al meccanismo attraverso cui si possono eseguire gli ordini anche più feroci e quelli più dementi, è il caso appunto di Eichmann. Allora, banale osservazione di un ascoltatore, che c'entra questo discorso con il fatto che Alemanno sta piazzando con gli amici sua, scritto letteralmente così, amici sua alle municipalizzate di Roma, una banda di disastrati e disastrosi? Questo ci chiede un ascoltatore che secondo me, da come scrive, deve essere romano, e questa domanda io la giro tale quale a Claudio Cerasa, che prima ci ha sorpreso perché ha detto sì, in effetti la banda Alemanno, anzi Lupo Manno come lo viene chiamato nell'ambito del foglio Alemanno, è effettivamente più temibile, più zannuta, cioè i dentini più accuminati di quelli dei sindaci precedenti di centrosinistra, e quindi ha ragione questo ascoltatore da Roma che ci richiama alla banalità del male di questo centrodestra romano, peggiore di quello che si immaginava, non particolarmente più lontano dai grandi poteri in quanto destra sociale, ma anzi capace insieme di coniugare gli accordi con i grandi gruppi di potere della capitale, con i Toti, con il Caltagirone, alla CEA per esempio eccetera, e contemporaneamente capace di fare una vasta cucina di amici, parenti e sostenitori. È così? È questa la chiave del successo di Alemanno, secondo lei? Un filino esagerato, direi. No, secondo me la realtà è che, come cercavo di spiegare prima, da sempre a Roma insomma c'è questo meccanismo, questo grande meccanismo di clientele. Il vero punto però è che il modo in cui Alemanno ha preso la città in tutte quante le sue sfere culturali, anche di potere, è significativo, perché è una meccanica simile a quella adottata nel passato sia da Rutelli sia da Veltroni, e per fare diciamo un ragionamento che ci porti anche a fare tipo un discorso più politico, la presa di Roma di Alemanno è una presa che potrebbe portare anche ad altro, secondo me, e tutto questo sistema di potere che si sta creando dal basso, quindi anche attraverso le clientele, è un sistema di potere che si sta anche ampliando verso l'alto, quindi con l'establishment, gli imprenditori, i costruttori romani. domani, potrebbero senz'altro costituire un utile trampolino di lancio per Alemanno. E la stessa cosa, se ci pensiamo, l'hanno fatta tutti gli ultimi sindaci. Rutelli ci ha provato, Veltroni. Però c'era lei prima ci ha detto sì, è più esplicito, più sfacciato. Adesso ci sta spiegando che questa è la strada per l'ascesa politica nazionale di Alemanno. E allora intendiamoci, se la strada è avere sottoposti che prendono molti voti nei quartieri popolari, perché sistemano, perché chiudono un occhio sulle assunzioni, sui criteri dei clandestini nelle case popolari e così via, lei dirà che io sono paradossale, ma non mi pare, io semplicemente metto insieme tutto quello che leggo. Se però questa è diventata la strada attraverso cui Rutelli e Veltroni prima e oggi anche Alemanno diventano poi dirigenti nazionali, io di questa strada francamente penso che bisognerebbe farne a meno. Però il problema è che io non credo che quelli di centrodestra siano molto diversi da quelli di centrosinistra. Io questo non lo credo. Io credo che quello, come ha detto lei adesso, sia il sistema per ascendere nel nostro paese. Allora io quel sistema lì penso che sia o riformabile, come dice Emilio, cioè mettiamo i punti nei bandi di assegnazione delle case, delle cattedre, dei codici, se amante di tot vale tot punti. Beh, mi sembra più onesto che far finta che non ci siano, e lo dico per paradosso, oppure è un sistema che va abbattuto perché le case devono essere messe dal privato con regole che si fanno solo nel PGT territoriale e le società devono essere private. Questa è la mia banale osservazione, perché altrimenti devo augurare a quelli del centrodestra come a quelli del centrosinistra di avere pari opportunità di ascesa, quindi pari opportunità di assunzione tramite amici, alla cui pubblicazione sui giornali tutti faranno finta di, come sta facendo perfettamente Alemanno, che sta alzato le mani dicendo si faccia le indagini amministrative più trasparenti e dure del mondo, fingendo di non conoscere tutti quelli che hanno assunto, sono tutti quelli del suo blocco di potere, esattamente come avviene sempre con i sindaci di centrosinistra. Questa è l'ipocrisia. Poi molti ascoltatori possono pensare che il male sia la destra da una parte e la sinistra dall'altra. Il problema è che io sono d'accordo con Cerasa che invece il sistema di ascesa è assolutamente comune, un grande fiume di affini con sanguinei, parenti e sostenitori fino alla settima generazione, convinti di essere il bene, la virtù, perché dall'altra parte c'è il male occhiuto e zannuto da sconfiggere. Ma di che? I soldi che rubate da una parte e dall'altra sono sempre i miei e i nostri. Informazione sulla circolazione stradale, va! Puca, Puca, facci un secondo elevare, dici che cosa Luca De Filippo ieri dall'altezza e dal polvere delle assi che ha calcato fin da quando era giovanissimo in una delle più grandi famiglie del teatro italiano, che cosa ti ha riservato nell'intervento ieri alla presentazione del tuo libro a Roma? Che ha detto Luca De Filippo? Lui ha fatto un ricordo commosso di questo suo rapporto con il padre, ha spiegato una cosa di buon senso, diciamo. La cosa di buon senso è ci sono all'interno, diciamo, delle famiglie dei valori, delle competenze, dei talenti che vengono perpetuati di padre in figlio. E fin qui ci ora siamo, io un secondo devo spiegare a chi in ascolto che, come avrete notato per quanto abbia fatto molti corsi di dizioni, Carlo Puca non è esattamente del Tirolo, ecco, per così dire. No, è uno che non pratica la religione della famiglia. Prego, Danino, le confesserò che non ho nemmeno fatto un corso di dizioni, nel senso che ci tengo a mantenerlo l'accento meridionale, quindi... Allora torniamo ai valori della famiglia. Sì, lui diceva, lui dice, di padre in figlio si trova una competenza, un talento, un valore, eccetera. Ora, lui si preoccupava invece di quelli lì che, come dire, non appartenevano alle famiglie di teatranti. Dice, perché io ho un motivo per fare il teatrante, gli altri che motivo hanno per farlo? Allora, io ho cercato di spiegargli che il problema non è, come dire, il passaggio di talento o di competenze da un parente all'altro, intere famiglie di teatranti, di attori, eccetera. Il problema è se uno approfitta del proprio ruolo pubblico per sistemare i parenti e figli, come nel caso appunto Romano. L'imprenditore che lascia la sua industria, a chi la deve lasciare? Allo Stato, la lascia al figlio, ci mancherebbe altro. È evidente, l'avvocato che lascia il sostituto dal figlio, poi stanno sul vede Puca, lei adesso sta dando la risposta a molti ascoltatori che sono critici con la mia posizione privatizzatore, e diciamo io leggo un sms di uno, ma insieme a tanti che mi arrivano di questo tenore, e dice testualmente: lavoro in un'azienda in cui sono in posizioni dirigenziali l'amante, la sorella, il figlio, il cognato, l'amante del figlio, la moglie del figlio, e lei dice meglio il privato. Io rispondo all'ascoltatore e ne approfitto del passaggio del ragionamento di Puca che sta stava esattamente citando gli studi di avvocato, le imprese private. Dico sì, caro ascoltatore, certo che è meglio il privato. Sai perché è meglio il privato? Perché i soldi di quell'azienda in cui lavori tu sono di chi ce li ha messi, mentre i soldi dell'ATAC e dell'AMA sono i nostri. E se non sapete cogliere la differenza, vuol dire che siete degli schiavi. Questo è, e ve lo urlerò con tutta la forza che ho finché mi fanno stare a questo microfono. E vuol dire che avrò esagerato a urlarlo, perché avere dimenticato la differenza tra il denaro preso dalle vostre tasche e quello messo dai privati, che non viene dalle vostre tasche, è la differenza fondamentale tra un cittadino consapevole della propria libertà e uno schiavo che geme sotto il tallone e lo ringrazia, quello dello Stato, che è semplicemente il colore politico pro tempore di chi mette amici, amanti, eccetera. Coi soldi vostri, vi par da poco come differenza? Perdoni Puca, io ogni tanto mi accaloro, però no, torniamo ai valori di cui stava parlando. Posso dire un'altra cosa? Io sono oltre Miglio. Cioè, io penso, per esempio, che il sistema mafioso sia un sistema assai più meritocratico di quello lì pubblico. E mi spiego, è un sistema orrendo perché è basato sulla violenza, questo va da sé, diciamo, proprio perché è basato sulla violenza è orrendo. Ma almeno lì i clan hanno una logica per la quale io combatto l'altro clan e per cui il più violento, il più duro, il più forte vince. Va bene. Prendiamo l'università. L'università italiana è basata sui clan. Ma i clan fanno comunella tra loro, cioè io sistemo tuo figlio, tu assumi mio figlio all'altra cattedra e questo sistema sta portando, come dire, alla castizzazione, cioè non mi viene il termine, insomma, alle caste sul modello indiano, per cui se tu appartieni alla casta giusta, fai carriera, risolvi i tuoi problemi economici, eccetera, se tu non sei nelle caste sei destinato, diciamo, a rimanere popolo. Popolo nel senso più dispregiativo del termine, insomma. Questa è una cosa secondo me sbagliatissima, anche perché appunto chi parla di merito poi non asseconda, diciamo, le parole. Noi parliamo di Alemanno, è vero, però io per esempio penso all'Italia dei Valori, no? A Cristiano Di Pietro che fa l'esame di maturità e lo fa a porte chiuse dopo essere stato bocciato due volte. Dice, lo fa, come mai Cristiano Di Pietro fa l'esame a porte chiuse? Lo fa perché? Per motivi di sicurezza. Allora io mi domando, non si poteva mettere una scorta lì davanti alla porta della parola, facciamo a ognuno la sua trota, ecco. No, ma io appunto trota non ne parliamo, il trota. Allora sì, però un vecchio proverbio delle mie zone, il pesce puzza dalla testa. Se sono i leader, tra virgolette, Di Pietro, Bossi, Alemanno, a fare così, è normale che poi a cascata facciano tutti così. La parentela poliromana probabilmente è avvenuta anche in gran parte all'insaputa di Alemanno, ma se tu Alemanno fai nome eleggere tua moglie in consiglio regionale nel listino bloccato, cioè pensa manco fare la campagna elettorale. Ma che vuoi che succeda? No, lei documenta da un certo punto, di quando a un certo punto Alemanno si raffredda nei confronti della attuale moglie, e anzi sembra averla lasciata, ha una relazione con una signora del centrodestra che diventa poi consigliera regionale, che a quel punto si stacca da un rapporto col quale tornerà quando invece si raffredda di nuovo quello con Alemanno, che torna invece con la moglie, e a quel punto verrà eletto anche quello che questa signora del centrodestra romano, che è Barbara Saltamartini, poi si sposa. È corretto? Perché io poi mi sono perso nella vertigine dei rapporti, è così? No, è così, esattamente così. Allora, io vi invito a leggere con un certo gusto questa sapidissima testimonianza dei libri sacri della Repubblica Italiana, cioè Tengo Famiglia, l'Italia dei Parenti, edizione Liberti di Carlo Puca. A chi volesse riapprofondire i ganghi, il significato e le prospettive future, io sono d'accordo che avrà Gianni Alemanno, il sindaco che secondo me avrà un ruolo nazionale nella politica del centrodestra. Leggete La presa di Roma di Claudio Cerasa, e io mi scuso con la serietà di Carlo Lottieri, che aveva bisogno di compagni un po' più seri di puntata di oggi di quanto siamo stati noi, perché Carlo Lottieri è quello che ci ha dato il grano salis per riflettere. Aveva ragione Miglio: di fronte a caratteri così diffusi nella nostra vita pubblica è meglio rendere espliciti da una parte, a b capire perché la discrezionalità pubblica in sé comporta queste cose, e quindi, conclusione mia un po' più ragionevole di quanto l'abbia urlata prima, però va per questo limitata fortissimamente. Comunque, che schifo a Panettopoli romana. Conclusione, grazie in regia a Fabio Cantatori e Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a Franco Pertenuti, assistente alla diretta. Appuntamento a domani lì nel Giornale Radio.